a slick chick. See, a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. Yeah, yeah, yeah, yeah. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm. She's Miss Ryan. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. But she bought a make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click a stick chick. Yeah, yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, mama, mama. Yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. A stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah, yeah. Click it, click a stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta yeah, yeah, play the little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Ben ritrovati e ben ritrovate a Slick Chick, mercoledì 5 marzo 2019, ovviamente, sempre su Radio Wombat. Puntata questa di Slick Chick, ve lo dico subito, è una puntata di protesta. Slick Chick vuole alzare la voce con forza contro questi tempi bui in cui ce la si prende sempre con i gattini. I gattini nell'internet in particolare, cioè tutto un lamentarsi, i gattini, cioè come se chi guardasse i gattini su internet fosse un povero mentecatto, ecco, tutto il mondo va male per colpa dei gattini, certo la società si è imbarbarita per colpa appunto dei gattini su internet. L'internet in realtà è un posto migliore grazie ai gattini, le persone intelligenti lo sanno. E quindi questa puntata di oggi è proprio dedicata ai gattini, perché cioè, proprio con orgoglio, a noi non ce ne frega niente di tutto quello che dicono, noi siamo orgogliosi, orgogliose di ospitare i gattini qui in prima fila su Slick Chick. Ecco, e l'abbiamo fatto iniziando da The Valsing Cat di Leroy Anderson. Tra l'altro c'è un video su YouTube, giusto per, no, entrare subito nel vivo della questione, con cui rifarsi gli occhi, un video dedicato appunto a questo brano musicale. Leroy Anderson, il brano questo qui è del 1950, e Leroy Anderson, un nome abbastanza così sconosciuto a noi, che poveri mortali, ma in realtà è tutt'altro che sconosciuto, è un compositore di deliziose e delicate melodie, diciamo. E insomma, puntata dedicata ai gatti, puntata difficile, perché chiaramente io potrei andare a, boh, penso avanti per ore a parlare di gatti, ma già la puntata su Firenze abbiamo strabordato insieme ai miei degni compari di ore e ore, quindi insomma cercherò di andare dritti come treni e di non fermarci, soffermarci troppo nel dettagliare lo splendore di questi animaletti. E alcune canzoni, ci sono molte canzoni che si sono occupate dei gatti. Io in particolare non ho preso spunto, devo dire, da Wikipedia, ma leggendo quello che la pagina di Wikipedia dice alla parola gatto, dice un sacco di roba di cui oggi, insomma, un po' ve ne racconterò. Ma anche riguardo alle canzoni, alla musica, insomma, che riguarda i gatti, cita ovviamente La gatta di Gino Paoli, poi cita 44 gatti, Volevo un gatto nero dello Zecchino d'Oro, che io vi devo confessare sono stata molto boh, così tentata da farvelo ascoltare, da metterla in scaletta, non certo perché me l'aveva suggerito Wikipedia, ma perché fa parte del mio bagaglio culturale da molti anni, ma poi mi sono limitata. Volevo anche mettervi, peraltro, Gatto rognoso di Friends, ma anche lì mi sono dovuta imporre un limite di decenza e quindi non ve lo beccherete. Poi c'è anche Elme Gat di Van Della Mea che cita Wikipedia, oppure ovviamente il musical strafamoso Cats. Ma anche Freddie Mercury pare che dedicò un intero album, Mr. Bad Guy, ai suoi gatti, e poi anche un paio di canzoni, Delilah e Bijou. E poi, vabbè, ce ne sono tantissimi altri di brani che parlano di gatti. C'è il duetto buffo di due gatti, che è un componimento musicale attribuito, pare per errore in realtà, a Rossini. Un componimento, devo dire, molto molto divertente. Anche qui ero tentata, ma me lo lascerò per la fuga del gatto, per l'appunto. E poi, ovviamente, i Cure che parlano di gatti in maniera proprio, non è che ne parlano, le impersonano con The Love Cats. Ma siccome qui a Slick Chick ci vogliamo sempre distinguere, ecco, non vi farò sentire niente di tutto questo, ma proprio per niente. Inizierò, anzi, continuerò, visto che abbiamo già iniziato, con John Fay, con The Dance of the Cat People, l'ultimo disco di John Fay prima che morisse nel 2001. L'album, appunto, quest'ultimo disco si chiama Hitomi ed è del 2000. Quindi, beh, iniziamo da qua. Thank you. forse eravate abituati a John Fay, quello delle, insomma, quasi cantautorale, anche se, ecco, forse definirlo così è un po' eccessivo dall'altro lato, ecco, comunque il chitarrista molto virtuoso, ma con queste armonie placide, rilassanti sicuramente, insomma siete rimasti un po' sconcertati probabilmente, ma John Fay ha fatto anche un'interessante ricerca, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, una sperimentazione di suoni incollati tra di loro, come questi che avete sentito, e miagoli di gatti, come in questo caso fatti con la musica, ecco. Proseguiamo nella nostra puntata, qui bisogna un po' sbrigarsi. Felis Silvestris Catus, così è come lo classifica Linneo nel 1758, il nostro amato gatto. Quindi questo è il suo nome, quello ufficiale, quello scritto sui registri. Per comunicare il gatto, il Felis, utilizza vari vocalizzi, più di 16. Pensate un po', 16. Ma non solo i vocalizzi, utilizza anche le fusa, le posizioni del corpo e produce feromoni. In realtà quest'ultima cosa è probabilmente una delle cose più importanti, ma non solo, insomma. Prevalentemente domestico, il gatto può essere addestrato ad accettare istruzioni semplici e può imparare da solo a manipolare svariati meccanismi, anche complessi, tra cui le maniglie delle porte o la chiusura delle gabbie. Cioè, vi sto leggendo Wikipedia, cioè non è che, perché effettivamente studi scientifici hanno dimostrato quello che comunque tutti i possessori di gatti sanno, ecco. Il gatto possiede 200 milioni di terminazioni olfattive, questo magari non lo sapevamo, molte di più rispetto al cane, e qui iniziano i paragoni, ve lo dico, che qua c'è una battaglia in corso. Beh, già vinta peraltro. I cani appunto ne hanno da 80 a 100 milioni di terminazioni olfattive a seconda della specie, e l'essere umano, vabbè, poraccio, ne ha 5 milioni. E queste terminazioni olfattive nel gatto sono specializzate nell'individuazione del cibo. Anche questo ve l'avremmo potuto dire tutti noi che convivono con dei gatti. In effetti ha una sensibilità a vari composti azotati che consentono all'animale di stabilire con grande sensibilità se il pasto è rancido e andato a male, mentre il cane, porino, azzanna il boccone che gli viene dato, poraccio, che deve fare, e invece il gatto lo ispeziona annusandolo, ed è lì che si accorge della gabola. Infatti è molto più difficile avvelenare un gatto che non un cane, eh? Il gatto non gliela si fa tanto facilmente. Sul cibo vi volevo dire un'ultima piccola cosa, perché insomma è molto importante. Il record di peso e grandezza tra i gatti è detenuto da Balù, un gatto castrato italiano che alla sua morte nel 2010 pesava 23 kg per 96,5 cm di lunghezza totale. Qui si potrebbe fare un excursus sulle mamme italiane o sulla cucina italiana, perché mi pare evidente i motivi per cui questo record è detenuto da un gatto italiano, ma vabbè, non ci possiamo dilungare, e quindi ci ascoltiamo il prossimo pezzo, che è di PJ Harvey, Cat on the Wall. L'album è UUR del 2014, e fondamentalmente PJ Harvey in questa canzone dice che c'è a sua volta una canzone, c'è sta canzone alla radio che tutte le volte che la sente la fa zompare come un gatto sul muro. Avete presente, no? Quando i gatti spiccano quei bellissimi balzi che non puoi fare a meno di rimanerne ammirato, ecco, quelli lì. Can't get the sound. parlavamo prima dei vari modi con cui i gatti comunicano. Il gatto, insomma, utilizza per comunicare anche una larga gamma di posizioni del corpo in cui si mette, ecco. La posizione generale del corpo, le sue mimiche facciali o il movimento della coda, degli occhi e delle orecchie indicano il suo stato emozionale. Quindi, mi raccomando, imparate a leggerle. Quando è spaventato o aggressivo, il gatto tira indietro le orecchie e tende i baffi. La coda sollevata invece è in segno di saluto. Quando è spaventato e vuole incutere paura all'avversario, fa una gobba e rizza il pelo per apparire più grosso. E poi invece quando il gatto cioè fa una oscillazione lenta della coda, esprime serenità e divertimento. La coda ritta con la sola punta piegata da un lato è indice di benessere e di piacere. La coda agitata ritmicamente, invece, talvolta sbattuta con una certa forza da un lato e dall'altro, invece mostra un certo nervosismo che può trasformarsi in aggressività. Quindi state un po' attenti, perché la coda non è che ci sono, c'è un solo modo di muovere la coda, di agitare la coda, sareste veramente delle persone banali a crederlo. Altre volte la madre utilizza la sua coda per stimolare l'istinto di caccia della sua prole. Ed è così che poi noi ci troviamo, poveri umani, attaccati dai gattini che si attaccano ai nostri lacci delle scarpe e cose affini, perché come glielo vai a spiegare che è diverso. E, proseguiamo nella scaletta musicale anche, oltre a queste perle di scienza che vi do, Kid Six o Six, il gruppo di cui vi parlo, anzi non è un gruppo, è un singolo individuo, perché si tratta di Miguel Tros de Pedro, che è un venezuelano migrato negli Stati Uniti a San Diego prima e a San Francisco poi, ed è un esponente piuttosto conosciuto della scena hardcore techno, industrial, breakcore, insomma potremmo mille sfumature ci avrebbe. Secondo me è molto ironico e incisivo e c'entra con la scaletta di oggi perché nell'album del 2000 Done With The Sin ha infilato un brano intitolato Meraviglia My Kitten. Che in effetti non si capisse tanto dove finiva il pezzo dove ne iniziava un altro, ma questi piccoli 30 secondi erano gli Ali e le Storie Tese con il loro intro, il loro non si potrebbe, no, non lo definirei proprio un intero pezzo, ma insomma un intro. Gattini in particolare si intitola questa intro, che ha anche il nome dell'album, album del 2009, Gattini, appunto, i migliori successi o tra i migliori successi degli Elio e le Storie Tese riarrangiati per orchestra, l'avrete insomma sentito, era un intro appunto proprio per orchestra. La copertina la potrete vedere, insomma, se non avete questo disco potete cercarvela nell'internet, è piena di gattini, ci sono questi gattini, ognuno appunto associato a un membro del gruppo, e rispettivamente, mi sento di citarveli, Lampone Mazzola, il gatto rosso, Cesareo, Clementino Polverino, gatto persiano bianco, Christian Meyer, Farralovati, gatto persiano nero, che è Elio, e Scrotofelt Brambilla, ottimo nome, anche facile da insomma con cui chiamarlo, gatto bianco, che è Rocco Tanica. Non compare invece in copertina il gatto associato a Faso, Miniature Lomazzo, o Miniature, ma no, Miniature, chissà che lingua, Lomazzo, gatto bianco e nero, che invece è visibile nel libretto del disco, che sicuramente avrete. Questa intro che ci siamo appena ascoltati campiona i Miao, dallo spot dei croccantini Miao Mix. Importante, perché non abbiamo ancora parlato di croccantini e andava fatto. Ma tornando alle nostre nozioni fondamentali, qui finora abbiamo parlato di gatti fondamentalmente così, birichini e gentili, ma il gatto in posizione di attacco o di difesa è anche capace di ringhiare e soffiare per intimorire e avvisare l'avversario, vi sarà capitato. Secondo alcuni ricercatori, il soffio imita il comportamento del serpente. Cioè, come, no? Io non lo sapevo, voi? Quando è aggressivo il gatto, specialmente quando si sta confrontando con un altro gatto, può emettere un ringhio di tonalità molto bassa e profonda, e questo sarà capitato e vi avrà gelato il sangue, che è considerato l'ultimo avviso prima dell'attacco. Quindi sappiate bene, prima si è parlato della coda che è agitata in una certa maniera, ora ringhio basso, scappate. Cioè è anche veloce, perché poi corrono. Bene, prossimo pezzo, The Cramps, Confessions of a Psycho Cat, ovviamente non potevamo non metterlo, l'album è del 1994, Flame Job, e il brano fondamentalmente dice che pure il Papa gli si inginocchia allo psicogatto, che magari è parente dello stregatto, non lo so, nipote dell'aristogatto, fratello del gatto con gli stivali e altri parenti illustri di questo tipo, chissà. This is Lex Interior, supporter of music critic extraordinaire, at this time announcing the following audio avalanche of ram charge boogaloo and topless strip gear gyration. It's absolutely different. You'll hate yourself if you miss it. Bodier than Tobacco Road and earthier than God's Little Acre. Music of antisocial significance in scintillating stereo. You'll wince, you'll shudder, it will live in your memory forever! Parliamo di fusa, cose un po' più carine, dolci, ecco. Il meccanismo dell'emissione delle fusa dei gatti non è ancora conosciuto. Questa è cosa nota, non si è capito ancora, cioè noi poveri umani non siamo in grado assolutamente di capire cosa succede. Pare che i felini comunque non possiedono un organo dedicato alle fusa e quindi non si capisce proprio com'è che riescano a fare sta cosa. Una prima ipotesi suppone una contrazione molto rapida dei muscoli della laringe che comprimerebbe e dilaterebbe la glottide facendo vibrare l'aria che passa. In effetti una vibrazione della glottide produce anche negli esseri umani un rantolo abbastanza che potrebbe in qualche modo ricordare delle fusa, ma La cosa più strana, insomma, viene dopo e ora ve lo spiego. Un'altra ipotesi più antica evoca una vibrazione della vena cava amplificata dai bronchi, dalla trachea e dalle cavità nasali. Questa, vabbè, è stata un po' buttata lì. Queste vibrazioni sonore, appunto le fusa, si ritrovano in realtà nella maggior parte dei felini, non soltanto nei gatti, ma appunto non si riesce a spiegarsi come mai. Ma i gatti in particolare, e questa è la cosa che li differenzia e che proprio non si spiega, riescono a fare le fusa sia durante l'inspirazione che durante l'espirazione senza assolutamente interrompere appunto questo suono. E questo proprio non se lo spiega nessuno. Le fusa cominciano all'età di 2 giorni e durante l'allattamento i piccoli rassicurano in questo modo la madre che tutto va bene e che insomma non importa che li sorvegli continuamente, cosa che però insomma le gatte fanno con una certa autonomia. Le fusa della madre a loro volta rassicurano i piccoli che sono al sicuro. E l'emissione delle fusa avviene anche durante la pulitura dei piccoli, ma può avvenire, attenzione, anche quando il gatto è malato, ferito o morente. In questi ultimi casi è probabile che le fusa servano all'animale per rassicurarsi e farsi coraggio, oppure anche per richiedere un aiuto. E qui, mamma mia, mi viene un po' da piangere, ecco, è molto molto triste questa cosa, è molto bella, ma andiamo oltre, ascoltiamoci un po' di musica perché sennò mi commuovo. E quindi andiamo sugli Uzeda, gli Uzeda che ci fanno riprendere un po'. Nico and His Cats, tratto da Different Section Wires del 1998. Gli Uzeda ve li ho già proposti più volte, sono catanesi, nati nell'87, quindi hanno una bella storia alle spalle, amici fraterni, questa è cosa nota degli Shellac e in particolare di Steve Albini, invitati a registrare una delle famose Peel Sessions, cosa veramente non da poco, direi, per un gruppo italiano, anzi direi piuttosto inaudita. Ecco, e quindi sentiamo loro che in realtà non parlano espressamente di fusa, ma comunque parlano di Nico e i suoi gatti. Veniamo a un'altra cosa importante, il sonno, direi un bel po' importante. Il gatto necessita tra 12 e 16 ore di sonno, ma in generale dorme di più, dalle 15 alle 18 ore al giorno. Resta così sveglio circa dalle 6 alle 9 ore, una parte delle quali durante la notte per cacciare. Direi la mia vita ideale, ecco, cioè più o meno io, ecco, penso di aver il diritto anche a richiedere, insomma, non lo so, una pensione, qualcosa, una sovvenzione, perché io ho i bioritmi di un gatto e non capisco perché gli altri, insomma, gli esseri umani si insistano a chiedere di adeguarmi ad altri orari che non sono i miei. E insomma, partirà una raccolta di firme, penso, per liberarmi da queste schiavitù di far finta di essere un essere umano. E se la volete firmare, poi insomma vi darò i dettagli. Il sonno del gatto comprende una grande proporzione di fasi di sonno paradossale, quello che viene chiamato il sonno paradossale, durante le quali sogna. E tant'è che, essendo che insomma dorme un sacco, sui gatti, ahimè, non sempre è stato brutto, però insomma sono stati fatti un sacco di esperimenti. Beh, a parte il sonno, ora ci ascoltiamo un gruppo che mi sa, ho questo dubbio, ma credo proprio di non avervi mai fatto sentire, e me ne dispiaccio e me ne dolgo. I Gatto Ciliegia contro il grande freddo, cioè un gruppo che probabilmente siamo in pochi a conoscerli, non lo so, però insomma quantomeno non siamo tanti, ecco. E però vale invece molto la pena di scoprirli o riscoprirseli se ce li eravamo dimenticati. In particolare dei Gatto Ciliegia contro il grande freddo, beh, non vi sto a dire ovviamente per quale motivo li ho scelti, ma ci ascoltiamo un brano che non è dedicato ai gatti, tanto la funzione di dedica ai gatti l'abbiamo già espletata con il nome del gruppo, e ci ascoltiamo Quando eravamo re del 2008, tratto da Disco Noir. Vabbè, e adesso scatta la dedica. D'altra parte, cioè, non l'ho fatta inizio trasmissione, la devo fare adesso, è il momento. Scatta la dedica a un noto esponente del movimento in difesa dei gattini, un amico che il prossimo pezzo, ve lo anticipo, parla di Roma, e questo esponente famoso per appunto la difesa dei gattini abita anche lui nella stessa città, anche se devo dire insomma, la sua parlata non lo direbbe assolutamente, insomma non sembrerebbe esserlo assolutamente, e a lui dedico, tanto sa chi è, perché tante volte ci siamo trovati fianco a fianco nella strenua battaglia di difesa soprattutto dell'internet, cioè insomma appunto della liberalizzazione dei gattini su internet, basta con la repressione dei gattini su internet e con la ghettizzazione di chi li guarda, ecco, spesso ci siamo trovati insieme in questa battaglia, quindi lo saluto e gli dedico assolutamente questa puntata. E quindi anche ovviamente il prossimo brano, che come insomma vi ho detto, vi ho già un po' rivelato, parla in qualche modo di Roma, ma non solo di Roma, perché in realtà è ambientata a Parigi, parla di Parigi nel 1910, vabbè, si tratta degli Aristogatti. Negli Aristogatti, fin del 1970, come saprete, ambientato a Parigi nel 1910, una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli Minou, Matisse e Bizet vivono nella magione della cantante lirica in pensione Madame Adelaide Bonfamille, insieme al maggiordomo Edgar. Presto lei fa testamento con il suo avvocato Georges Hautecour e un suo vecchio eccentrico amico, affermando che desidera che la sua fortuna sia lasciata ai suoi gatti, ovviamente, che la terranno fino alla loro morte. Beh, sì, certo. Dopo la quale la sua fortuna andrà ad Edgar, cioè un personaggio veramente ingenuo e anche maldestro, questa contessa. Edgar sente questo dalla sua camera, perché spia, ecco, e non disposto ad aspettare che i gatti muoiano naturalmente prima di ereditare la fortuna di Madame Adelaide, complotta per rimuovere i gatti dalla posizione di eredità, che è un modo elegante per dire che li cerca di ammazzare, è una cosa, cioè un complotto bello e buono, diciamocelo. Ma noi non parliamo in particolare, attraverso questo brano che ci stiamo per ascoltare, del complotto, delle scene più anche un po' sofferte e pesanti e truci di questo film degli Aristogatti, ma ci insomma rilassiamo un po' con la bellissima canzone di Romeo. E arrivacce qui da Roma, ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io so Romeo, per meglio del Colosseo, io fermo non ci sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città, già. E poi laggiù tanta scena farò, con ogni gatta che me vedrà dirà, ma che permissione, che simpaticone, quel Romeo. Per meglio del Colosseo. Si cambio so guai, sto bene come sto, io non me leggo mai, catene non ce n'ho, aggregate si vuoi, io so dove finirai, in Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa a prega non sto, tutto quello che me va con un gesto sciò. Penso sempre che lavi miei tra ruderi e mausolei. Sapevano già, fazze rispetta e considera da nobili e plebei. Se tanto me da tanto, gode me ne vanto d'essere Romeo, er meglio del Colosseo. Ci avrò er busto er pinci er museo, e già. Che meraviglia, cioè come faccio adesso a continuare con questa scaletta, cioè, veramente ho dei grossi problemi, ho delle difficoltà, ma vabbè, dobbiamo farlo con Petula Clark, cioè, rimaniamo comunque su un livello alto. Petula Clark, The Cat in the Window, tra parentesi, The Birds in the Sky, perché The Cat in the Window, non on the table, in the window, e The Birds in the Sky. E quindi un gatto alla finestra che osserva un uccellino, e solo Petula Clark credo poteva pensarla con innocenza. E, è una canzone, in realtà, ok, non è sua. Parole e musica sono di Gary Bonner e Alan Gordon, però è stato un singolo fatto uscire da Petula Clark, insomma, interpretato da lei nel 1967. Siamo quasi in chiusura, ci manca solo questo e altri due pezzi, quindi lo so, prima o poi, come tutte le cose belle, devono finire, anche questa puntata sui gattini volge al termine, ma intanto abbiamo ancora tre pezzi. Questo è il primo dei tre. Watching all the birds go passing by, he'd love to fly out the window, go where the wind goes, and so would I. Like that cat in the window who keeps wishing for some wings to take a ride, I'd love to glide to a rainbow off where the clouds go dancing by. And if I could fly, you wouldn't find me hanging around watching the birds go by. Yes, the cat in the window has a tear in his eye. Prima di lasciarvi con gli ultimi due brani, vi voglio ricordare che siete ancora in tempo per andare a vedere la nuova mostra del NEMA, del Next Emerson Museo Autogestito, in quel del Next Emerson in via di Bellagio, in zona Castello a Firenze. Nuova mostra che si intitola Il tramonto e la ruggine, copertine e illustrazioni di ruggine in mostra. Vi leggo il breve abstract. La ruggine ha un colore caratteristico, alcuni tramonti sono del colore della ruggine. La ruggine forse sarà anche quello che ritroveremo al tramonto della nostra civiltà di macchine. Non è detto che il mondo sarà brutto color ruggine, con una predominanza di verde, la vegetazione incolta penetrata ovunque. Ruggine e verde e silenzio. La ruggine è quanto rende effimere le nostre sofisticate macchine. Senza guanti e senza mascherina tagliamo e cuciamo, raccogliamo pezzi di ferro erosi e li incolliamo in uno strano pupazzo meccanico. Sporcarsi le mani di ruggine, imparare a conoscerne la composizione chimica, forse non basterà a farci sopravvivere, ma almeno ci farà sentire meno inutili. Dal 1 al 17 marzo, queste sono le date per poter visitare questa mostra, vi invito a guardare gli orari di apertura che trovate sul blog, sul sito del NEMA, nema.noblogs.org, c'è un link orari dove trovate gli orari di apertura, gli illustratori che troverete, insomma le opere che troverete sono di Stefano Artibani, Zero Calcare, Limerick, Rocco Lombardi, MP5, Dennis Busatto, Illustre Feccia, Gio Pistone, Alexander Zograf, Kitty Moore, Pirate, Boris, PCC, Silvicius, Martina, Icaruga e Paper Resistance. Quindi insomma, mi raccomando, potete vedere anche delle anticipazioni sul sito nema.noblogs.org. Insomma, fateci un salto perché vale la pena. E questo era l'annuncio culturale che vi volevo dare. E adesso però è giunto il momento del penultimo pezzo, quasi in chiusura. Christian Young, Catland, che bello, la terra dei gatti. 2017. Una pianista, Christian Young, e cantante che ha lavorato con David Bowie, Morrissey, Brian Molko, Tony Visconti, insomma un bel po'. E anche lei, giustamente, come tutte le persone intelligenti, evidentemente amano i gatti. I think Kitty Cat's ready. Can Kitty Cat do a vocal? Can you do a vocal for Kitty Cat? Or I can pretend her voice. Yeah, her voice. Twas Radio Wombat, Slick Chick, siamo in chiusura e non vi ho ancora detto i social Wombat, wombat.noblogs.org, il nostro sito dove trovate tutte le varie novità, e tra l'altro vi invito anche alla festa, una serata concerta con la Romola Sound System ed altri sabato prossimo, quindi sabato 9 marzo in quel del CSN Emerson, che così potete fare la combo e andare a vedere anche la mostra, perché è un benefit per Radio Wombat. Quindi insomma, siccome questa radio non ci stancheremo mai di ripetervelo, è una radio libera, indipendente e soprattutto non commerciale, autogestita e tutto quanto, ha bisogno del vostro supporto per tirare avanti la baracca. Quindi insomma, venite e supportateci attraverso questa serata di autofinanziamento. Direi che però abbiamo finito qua. No, non è vero, non vi ho detto la posta. I social Wombat non si esaurivano con il sito. C'è anche la casella di posta, posta wombat@insiberia.net. Bene, ho fatto il mio dovere e adesso vi saluto con un brano che vi dà un po' la buonanotte, anche se presto magari avrete tante altre belle cose da fare, che la serata continua, oppure se ci state ascoltando in replica, chissà, magari mattina, boh, non lo so. In ogni caso, chi vi accompagna alla chiusura di questa puntata è Nick Cave, in particolare però il primo gruppo di Nick Cave, The Birthday Party, perché nel 1980 hanno dato vita a Catman, una cover dell'originale del 57 di Jane Vincent. Quindi vi lascio con questa e vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno alle 8:30, traffico permettendo, sempre ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao! Cat